in primo piano. Buongiorno, buon lunedì, buon Santo Stefano da Giulia Crivelli. Oggi non possiamo parlare dei quotidiani perché per una strana usanza che secondo me prima o poi dovrà essere cambiata, il 24 e il 25 di dicembre i giornalisti della carta stampata non lavorano e quindi il 25 e il 26 non ci sono giornali. Torneremo domani perché oggi noi giornalisti della carta e naturalmente i colleghi di Radio 24 lavorano. Per quindi gli aggiornamenti proprio di quello dell'attualità potete naturalmente seguire i GR di Radio 24 oppure anche i due siti, quello del Sole 24 Ore o quello di Radio 24. Noi invece abbiamo un po' tenuto da parte delle cose uscite negli scorsi giorni, nella settimana scorsa, per citarvele perché sono ancora tutte disponibili o in edicola o online. E cominciamo da Internazionale. Sapete che l'ultimo numero dell'anno di questo settimanale in realtà copre due settimane, è un po' speciale, si chiama Storie, come quello che esce per Ferragosto, ed è appunto una raccolta di storie e la copertina è affidata a un illustratore, quest'anno è Lorenzo Mattotti, che è uno dei più grandi illustratori italiani, in realtà è molto più di un illustratore, tra l'altro proprio in questi giorni, ancora fino credo a marzo, vicino a Trieste c'è una sua grandissima mostra che si chiama Sconfini, che vi invito davvero ad andare a vedere. È uno dei pochissimi illustratori italiani che ha avuto l'onore, perché di questo si tratta, di disegnare la copertina del New Yorker, per esempio. E vi dicevo, le storie sono tutte all'interno, le trovate, e con tutte illustrate da altri bravissimi disegnatori. Uno zoo come tanti, per esempio, di Lisa Moore, è illustrato da Manuele Fior, che è un ragazzo giovane che ha trovato fortuna in Francia, ma poi è stato pubblicato anche in Italia. Secondo Round, una storia scritta da Kevin Hardcastle. Tutti questi scrittori sono stati selezionati quest'anno ce lo spiega Giovanni De Mauro nelle prime pagine, il direttore di Internazionale, da Nick Mount, che è il fiction editor di una rivista canadese che si chiama Walnuss e tra l'altro insegna inglese all'Università di Toronto, quindi ha selezionato appunto i migliori racconti, magari di scrittori di lingua inglese non tanto conosciuti da noi, ma tutti da scoprire. Quindi vi dicevo, il racconto Secondo Round con i disegni di Gipi, bellissimo, quello Estate Carnivora con i disegni di Francesca Germandi, che i lettori di Internazionale conoscono bene perché è lei che firma i disegni, che ha fatto i disegni per l'oroscopo di Rob Brezhnev, e ancora Gabriella Giandelli per quest'altro articolo, per quest'altra storia, l'altro festival. E vi segnalo anche Stefano Ricci, che oltre ad essere uno stilista è in realtà ed è un'altra persona, completamente omonimo, nessuna parentela, uno stilista fiorentino che tra l'altro ve lo segnalo perché è una cosa veramente eccezionale. L'11 gennaio sfilerà nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, è la prima volta da 40 anni che succede, è il posto, tanto per darvi un'idea, dove ha debuttato Giorgio Armani, ma questa è un'altra storia. Questo Stefano Ricci è un grandissimo illustratore italiano, anche lui è più conosciuto all'estero, in realtà è una matita in fuga, potremmo dire così, è molto conosciuto in Germania, vive a Amburgo e qui illustra una storia che si chiama Poppante Saggio. E poi Guido Scarabottolo, che sicuramente molti di voi conosceranno anche perché collabora anche con la Domenica del Sole 24 Ore, illustra la storia Dopo l'Uragano. Però vi segnalo soprattutto l'oroscopo di Rob Brezhnev. Compiti per tutti per il 2017, li trovate a pagina 111. Che cosa prevedi che succederà nella tua vita nel 2017? In che direzione stai andando? Bella domanda. E vi leggo tra tutti gli oroscopi solo quello del Capricorno, perché il Capricorno è il segno di questi giorni, è iniziato il 22 dicembre e dura fino al 20 gennaio. L'importanza di Edgar Allan Poe, scrittore del Capricorno, è innegabile. In quasi tutte le liste dei libri di letteratura americana dell'Ottocento, le sue opere sono definite come assolutamente da leggere. Tra i suoi capolavori ci sono la poesia Il Corvo, il racconto Lo Scarabeo d'Oro e il romanzo Le avventure di Gordon Pym. Ma non furono queste le opere più vendute quando Poe era in vita. Il successo arrivò soprattutto da The Conchologist's First Book, un manuale sulle conchiglie che in realtà lui non aveva neanche scritto, ma solo curato. Se leggo bene i presagi astrali, nel 2017 qualcosa contribuirà a garantire che il tuo destino, tuo di Capricorno, sia diverso da quello di Poe. Nei prossimi mesi i tuoi migliori talenti saranno notati e apprezzati molto più di quanto non lo siano stati finora. E speriamo per tutti i Capricorni. Vi segnalo anche, perché lo trovate poi online, il numero precedente di Internazionale, perché aveva un articolo, secondo me, bellissimo, richiamato dalla copertina, intitolato Potere animale. Siccome stiamo ripensando, credo, un po' tutti alle modalità con cui trattiamo gli animali, non solo gli animali domestici, ma soprattutto gli animali da allevamento, alla pagina 54 di questo numero di Internazionale, ma trovate l'articolo anche su internet, c'è questo lungo racconto tratto dal Virginia Quarterly Review, un trimestrale americano, intitolato appunto Potere animale. E tra le domande a cui si cerca di rispondere, c'è: l'addomesticamento è una forma di schiavitù? Gli esseri umani hanno il diritto di decidere se un animale è felice? Una convivenza basata sulla libertà e il rispetto reciproco è possibile? Il movimento animalista si interroga. E davvero sono domande anche di attualità. E di questa settimana la notizia, per esempio, che in Olanda verranno vietati gli allevamenti di visone, quindi anche non ci saranno più visoni olandesi per le pellicce. Può darsi che altri paesi seguano questa strada. La copertina del venerdì, il venerdì è il settimanale allegato alla Repubblica ogni venerdì, è dedicata a un musical perché a Mosca va in scena la trasposizione di Anna Karenina, uno dei libri più famosi di Tolstoi, ed è un trionfo al botteghino. Ma anche in Cina e Vietnam non scherzano, viaggio in un genere che da Broadway è diventato global, e trovate poi l'articolo all'interno. Molto interessante anche il reportage di Giovanni Porzio da Cuba, perché insomma la morte di Fidel Castro per molti sarebbe stato un grande cambiamento, avrebbe segnato una svolta, ma forse le cose non cambiano mai da un giorno con l'altro, quindi o stavano già cambiando o cominceranno a cambiare adesso. In ogni caso, il Giovanni Porzio, appunto con un reportage che include anche delle bellissime fotografie, ci racconta Natale a Cuba senza Fidel. La morte del leader massimo lascia un vuoto tra i nostalgici, tra questi anche i turisti occidentali e americani assettati di mojito. Per adesso il futuro dell'isola sono loro, perché sicuramente con la morte di Fidel si è accelerata un'apertura appunto al turismo, è partita la prima nave da crociera per Cuba. Adesso vedremo anche come Trump si regolerà, perché la grande apertura verso Cuba era stata di Obama. Vediamo che cosa succederà. Un altro argomento interessante, con un articolo di Michele Bocci che trovate a partire da pagina 52, riguarda l'omeopatia. Quanto si è scritto, detto e polemizzato sull'omeopatia. Di recente è stato pubblicato un libro e credo che se ne sia parlato tanto anche a Radio 24 in varie trasmissioni, ma l'omeopatia poi funziona davvero? Secondo i dati che ha raccolto venerdì in questo articolo, l'omeopatia sta poco bene ed è in cerca di una cura. La crisi, infatti, la crisi economica, questo tunnel che dura ormai dal 2008, quando insomma, si mette lì l'inizio della crisi, che in realtà maturava probabilmente da molto tempo, perché nel settembre del 2008 fallì una banca di investimento considerata infallibile, Lehman Brothers, e da lì si innescò la grande crisi economico-finanziaria da cui alcuni paesi sono usciti, altri no. Noi siamo forse a metà del guado. In ogni caso, appunto, questo articolo spiega che la crisi ha fatto diminuire i pazienti che ricorrono all'omeopatia, e ora nuove norme renderanno più costosa la produzione dei farmaci. Dopo anni di crescita, il settore sta soffrendo. In questo articolo vengono interpellati tanti suoi medici, perché i medici, gli omeopati, sono quasi sempre laureati in medicina, quindi sono medici a tutti gli effetti che poi hanno scelto questo particolare tipo di cure e di farmaci. 7, il magazine del Corriere della Sera, ha invece in copertina un tenebrosissimo Alessandro Gassman, perché sarà da po tra poco debutterà in una serie TV che si chiama Bastardi di Pizzo Falcone. È un commissario e in questa lunga intervista, che poi trovate all'interno, dice: vi racconto come vivo Napoli. Nella vita cerco la libertà di fare cose stupide, in TV invece ho voglia di riscatto. Non ho più gli accessi d'ira d'un tempo, sono solo, scusatemi il termine, ma così si autodefinisce lui, rompicoglioni. Vedo sprazzi di luci, anche se troppa gente non capisce che costruire è più lento che distruggere. È una lunga intervista interessante, dove appunto Alessandro Gassman, che sicuramente è stato sempre in questa posizione, credo difficilissima, di essere figlio di cotanto padre Vittorio Gassman, non solo di aver scelto anche la stessa professione del padre, e però nel tempo insomma ha fatto molte scelte non solo commerciali, potremmo dire così. E poi vi segnalo un'altra intervista divertente. Credo che molti di voi sappiano chi è Roberto D'Agostino. Si è inventato, beh, a parte le sue mitiche prime apparizioni con Renzo Arbore e nel varietà La Notte No, questo Roberto D'Agostino, che è un giornalista, ma potremmo anche dire tranquillamente definirlo un intellettuale, si è inventato il sito Dagospia. E questo sito è che in teoria dovrebbe essere un sito di gossip, di rumors, molto spesso anticipa le notizie. E qui Roberto D'Agostino, intervistato da Vittorio Zincone, dice: la post-verità, sapete, questo neologismo del 2000 che secondo molti giornali americani, soprattutto perché il termine originale è post-truth, quindi la traduzione in inglese, secondo molti giornali americani, è una delle parole del 2016, è una sorta di, molti di voi lo sapranno, l'avranno già sentito spiegare, comunque è come dire che dopo che è successo qualcosa si inventa una spiegazione a posteriori che diventa una verità, quando in realtà è un'interpretazione appunto a cose fatte. E allora Roberto D'Agostino dice: la post-verità è stata inventata dai rosiconi che non hanno capito la Brexit e Trump, perché naturalmente il riferimento è non solo ai sondaggisti, ma tutti i più o meno autorevoli commentatori che avevano previsto la vittoria di chi non voleva la Brexit, cioè del Remain, nel famoso referendum del 23 giugno nel Regno Unito, e poi avevano previsto che comunque alla fine avrebbe vinto Hillary Clinton, e sappiamo che non è stato così. E qui aggiungo, perché so che ci sono gli ascoltatori molto precisi, e tra l'altro approfitto anche per dirvi che se volete potete mandarmi un messaggio su Twitter, il mio account è Giulia-Crivelli, e dico che Donald Trump, lo sappiamo, si è calcolato dopo, ha vinto le elezioni per il complesso sistema elettorale che c'è in America, ma il voto popolare in realtà è andato a Hillary Clinton, c'è un distacco di 3 milioni di voti, non avveniva questo distacco così alto da moltissimi anni. Quindi Donald Trump ha vinto, però aveva anche ragione chi pensava che la battaglia sarebbe stata insomma molto che la campagna elettorale e poi le elezioni sarebbero state molto combattute. Ultima segnalazione prima di una breve pausa per il traffico, un altro articolo da 7: i piccoli fantini sfruttati dai genitori per 3-5 euro. Succede in Indonesia, sono bambini tra i 5 e i 12 anni che vengono costretti per pochi soldi a montare nelle corse ippiche. Sapete che i fantini comunque tradizionalmente devono pesare poco, essere leggeri, perché naturalmente così il cavallo è più libero di correre. Ci lasciamo un attimo, ci risentiamo tra pochissimo. In primo piano. Buongiorno, ancora ben ritrovati, e soprattutto buon Santo Stefano a tutti da Giulia Crivelli. Come vi dicevo all'inizio, sostituiamo la rassegna stampa dei quotidiani, anche se è un giorno della settimana, con quella dei settimanali o degli approfondimenti della settimana appena finita, perché oggi i giornali non sono in edicola, perché noi pigrissimi giornalisti, scherzo, della carta stampata non lavoriamo il 24 e 25, quindi oggi e ieri i giornali non ci sono. Ieri non ci sono stati e oggi non ci sono, domani però tornano, quindi domani puntuali 7:15 rassegna stampa, anzi anche un po' prima. Ma vi segnalo, perché una delle notizie che mi hanno colpita di più, anche perché, come forse molti di voi sanno, io seguo in particolare l'economia della moda, e una delle notizie che mi ha colpito di più di settimana scorsa è stata la morte di Franca Sozzani. Franca Sozzani aveva 66 anni, è stata per 28 anni il direttore di Vogue Italia, e veniva a seconda chiamata la signora della moda, la zarina della moda, comunque una donna che ha avuto un ruolo importantissimo nel promuovere la moda italiana e soprattutto all'estero, e nel promuovere in Italia i giovani stilisti, nel scovarli e promuoverli, oltre a essere impegnata proprio in una logica molto anglosassone, se vogliamo, in tantissimi progetti di charity. Era anche Goodwill Ambassador dell'ONU dal 2011, e tra i tanti ricordi che sono apparsi venerdì e poi anche sabato sui giornali, vi segnalo quello sul Foglio, scritto da Fabiana Giacomotti, che a sua volta è una giornalista di moda con una lunghissima carriera alle spalle, è molto arguta e quasi insegna anche storia della moda, è diventata più una storica della moda. Il titolo dell'articolo: Franca Sozzani, rivoluzionaria della moda che non rompeva le regole ma ne inventava di nuove. E vi leggo l'ultima parte, che parte dalle parole che ha mandato subito Jonathan Newhouse, che è l'amministratore delegato della Condé Nast, che è la casa editrice che possiede anche tutte le edizioni di Vogue. Ieri, perché questo articolo è apparso venerdì, ieri l'annuncio della sua morte, la notizia più triste che io abbia mai dato, portava la firma di Jonathan Newhouse, che nel documentario dedicato a Franca Sozzani dal figlio, e il documentario si chiama Chaos and Creation, dichiarava come qualche volta la volontà rivoluzionaria di Franca Sozzani avesse messo a dura prova la sua pazienza. Lei aveva rischiato a lungo, un numero dopo l'altro, poi aveva vinto, diceva sempre di aver sempre pagato tutto in prima persona e di non aver mai conosciuto la grazia del grande amore. Quindi una donna vista come una donna di ferro che aveva le sue debolezze, le sue fragilità e non aveva paura di ammetterlo. Sempre dal Foglio, un altro bell'articolo, questo è apparso giovedì, di Annalena Benini, che si occupa dei social network. Sicuramente sono anni che sono prepotentemente entrati nelle nostre vite. Quest'anno ci sono stati alcune grandi novità, come per esempio l'introduzione dei video su Instagram, il fatto che Twitter non cercasse un compratore ma non lo trovasse. Insomma, anche i social network hanno fatto notizia dal punto di vista economico o dell'ulteriore innovazione. E allora si chiede Annalena Benini: che cosa succederà alle biografie adesso che l'archivio più segreto è Instagram? Studieremo i video. E un po' una tra il serio, diciamo, e il faceto, l'idea appunto che oggi le biografie anche di personaggi molto importanti, misurabili purtroppo a volte in termini di migliaia o milioni di follower, si trovano su Instagram. Ma è anche proprio un tema che viene molto dibattuto anche nelle mostre fotografiche, che poi includono magari dei video, come appunto Instagram sia diventato quello che una volta era il diario scritto, magari addirittura il diario degli scrittori, quindi dei diari letterari. Vi segnalo, e qui tradisco una delle mie passioni, la copertina di Esquire, che è un mensile in lingua inglese. Questo è il numero, in realtà proprio questa è la versione, questa che ho io davanti, è l'edizione britannica, poi c'è anche un'edizione americana, l'ho trovata in edicola comunque perché è un doppio numero in realtà di gennaio e febbraio. Perché vi rivela una delle mie passioni? Perché in copertina c'è Tom Hardy, che è un attore britannico molto particolare, nel senso che sceglie i suoi ruoli con grande cura. Ve lo ricorderete forse come il cattivo di The Revenant, il film con con Leonardo DiCaprio, che ha fatto incetta agli Oscar, agli ultimi Oscar. Lui era il cattivo, che alla fine fa una bruttissima fine. Il titolo della copertina è Tom Hardy is not like other movie stars. Tom Hardy non è come le altre star del cinema. Tra l'altro a me è particolarmente simpatico perché lui ha una passione per i cani e quando va sui red carpet, che sono una delle occasioni più formali che esistano, sapete come le donne sono quasi sempre in lungo, gli uomini sono in smoking elegantissimi, lui ci va con il suo cane, che è tra l'altro è un salvataggio, perché lui ama i cani, ma soprattutto è anche cerca di sensibilizzare le persone sulle violenze fatte ai cani, sugli abbandoni che ci sono in tutti i paesi, non soltanto nel nostro, purtroppo. Vi segnalo poi, abbiamo parlato di un mensile maschile, anche se poi secondo me i mensili maschili li leggono molto volentieri anche le donne, così come i femminili li leggono volentieri anche gli uomini, credo, spero, perché poi ci sono sempre delle cose interessanti in tutti i mensili e settimanali, e qui faccio naturalmente l'avvocato della carta stampata. Vi segnalo per esempio il numero di Grazia di Natale. In copertina c'è Martina Colombari, bellissima, fasciata in un vestito rosso, perché poi naturalmente c'è anche una sezione dedicata ai look di Natale, ma il Natale è passato, quindi vi segnalo un articolo, una lunga intervista a Nicole Kidman fatta da Armando Gallo. Nicole Kidman, anche lei ha un nuovo film in uscita, ma è interessante, che si chiama Lion, la strada verso casa, ma è interessante anche perché forse molti di noi hanno un'idea un po' sbagliata di Nicole Kidman, che invece ha davvero una sua vita molto interessante, con grandi dolori, e la storia tormentata con il matrimonio tormentato con Tom Cruise. Ma proprio leggendo questa intervista si capisce che appunto è molto più di una bellissima donna e di una bellissima attrice. Quindi ve la consiglio. In copertina di Didi Repubblica invece c'è un'altra bellissima attrice, e qui forse è un po' meno una sorpresa vedere quanto pensiamo pensiero anche c'è in questa bellissima donna. Parlo di Natalie Portman, che anche lei sta per uscire con questo film dove interpreta Jacqueline Kennedy, forse la First Lady che più ha lasciato un segno nell'immaginario così del secolo scorso, e qui si racconta anche lei, e anche in questo caso viene fuori davvero una personalità complessa, e forse si capisce come un attore comunque diventa anche più bravo se coltiva interessi fuori dalla sua professione, soprattutto se non fa troppi film ma li sceglie con molta cura, come fa Natalie Portman e come sempre e come fa sicuramente da molti anni Nicole Kidman. Anche su di un reportage da Cuba, A Cuba aspettando Trump di Gianni Morelli, e anche in questo caso i temi che vengono affrontati e che in questo caso appunto Gianni Morelli cerca anche di magari affrontare con i locali sono il disgelo con Obama, poi le elezioni americane e poi naturalmente la morte di Fidel. Dopo le speranze e le accelerazioni dell'ultimo anno, l'isola caraibica è tornata in un tempo sospeso. E poi vi segnalo, perché io mi diverto molto con questi mensili, Focus. Focus di questo mese ha la copertina dedicata a il cibo che trasforma, ci salva dalle malattie e ci migliora il cervello. E c'è proprio un piccolo dossier, il dossier appunto di questo mese è questo, lo trovate dalle pagine 76 in avanti, con tutti i consigli e per sfatare alcuni miti, anche se poi devo dire è difficile per noi non scienziati, perché i miti vengono sfatati, poi vengono ricostruiti, insomma sembra che non ci siano poi vere certezze su che cosa fa veramente bene alla salute e che cosa no, e che cosa dovremmo mangiare, in che quantità. In ogni caso sempre utile avere delle nuove informazioni. Una curiosità che io ho trovato divertentissima, l'animale più veloce del mondo è un piccolo pipistrello, trovate la sua storia alla pagina 67 di Focus, pensate che supera i 160 km orari, non so per quanto possa mantenerli, però appunto per piccole distanze 160 km orari, altro che Usain Bolt. La copertina di Vanity Fair di questa settimana dedicata a Tiziano Ferro, perché è uscito il suo nuovo disco. Ne avete sentito parlare tanto anche a Radio 24 con l'intervista, penso proprio, di Marta Cagnola, e qui anche qui è una lunga intervista dove Tiziano Ferro, che ormai ha imparato a raccontarsi con grandissima sincerità, appunto racconta come è nato questo disco e perché lui lo considera molto diverso dai precedenti. Un'ultimissima segnalazione, Airone, anche questo a me piace molto, questo mensile, devo dirvi, questo è un pochino, diciamo, meno, non so come dirvi, meno scientifico di tanti altri mensili, perché vi dico solo la copertina: gli UFO sono già stati sulla Terra, la scienza cerca tracce aliene tra le civiltà egizie, sumere, inca e maya. Sicuramente un argomento suggestivo, spero appunto di avervi incuriosito, avervi dato alcune suggestioni, tante cose le trovate su internet. Ancora un buon Santo Stefano da Giulia Crivelli, ci risentiamo domani con i quotidiani.